la vita si fa ardua, io faccio un arduo. Tu rappi solo slogan con un flow non tuo. Io ti smonto tipo Hulk Hogan mentre indossi quelle Hogan. Sono antico, un po' retro tipo Reagan Ronald. Tutti sti fighetti che parlano di pop sono più fitti di un film di Alfred Hitchcock. E mentre provano a fare le hip hop suonano di strada ma li fermano anche gli stop. Fai il grosso, sì dai. Sei più forte, sì dai. Intendo in inglese che già sai cosa vuol dire, quindi adesso sparisci, ciao ciao, bye bye. Tutti fanno i grossi con i soldi di papà. Io farei una strage tipo fossi in GTA. Solo per farvi vedere cos'è l'umiltà. Tutti ti ne parlano ma nessuno lo sa. Sei così solo che la tua sporca è un alone. Parole polisemantiche, tu muori se manchi l'azione. Non hai capito la ridicola, rigiro la tua amico. L'ho sentita ed è ridicola, io la cestino. Bleh, tu mi scrivi commenti ed io scrivo testi e se li senti dopo pensi ed io. Sulla traccia sei guerrero come Eddio. Scoraggio haters a questa scena alzo il medio. Guarda il meteo e tempesta quando schiacci play. Lo stare a tempo non l'acquisti quando schiacci bay. Tutti sai chi sei, si parla di te, ma nessuno fotte del tuo rap come di William e Kate. Non è comedy, appari ma non resti. Abnormal fa tragedia, rime Shakespeare. Non essere o non essere, credici. Se fotti con noi scegli se perdere o non esserci.